si fosse sicuro come perdonasse stasera. Non è stato pigliato senza me mettere paura. Ho sbagliato il saggio, ma se tu ci tieni ancora, perdonami. Quanta bugia cattiva che ti hanno contato, vita mia. Nemmeno con pensiero ti ha mai tradito, giuro su Dio. E già fammi salire, sto quasi per impazzire, sotto casa tua. Farniscila, l'occhiagnara. A mezzanotte, compleanno tuoio, facimmo pace, grande amore mio. Non si può vivere lontano a noi, e gli amori che vivono soli. Si muovono la verità, chi va bene non si può ingannare. Non ti scordare che nessuno come me ti può mai amare. E sti cose che non te li ha mai scordare. E sto regalo che mostrerà bene, dice la verità. Non siamo mai restati una settimana appiccicato. Stavo dove veramente. Sto pensando che è fornuto. Ha già girato tutte le strade di Napoli. Stasera vado a cattare un regalo. Vita mia, col tuo nome. A mezzanotte, compleanno tuo, facimmo pace, grande amore mio. Non si può vivere lontano a noi, e gli amori che vivono soli. Si muovono di la verità, chi va bene non si può ingannare. Non ti scordare che nessuno come me ti può mai amare. E sti cose tu non te li ha mai scordare. Tu regala che mostrerà bene, dice la verità. Non te li ha scordato.